nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, come state? Come state? State bene? State rilassate? Nella nostra altra domenica di Radio 24, questo programma Nessuno è Perfetta induce appunto a rilassarvi un po' e a combattere con simpatia, con allegria, quello che è il mito costruito negli ultimi 20 anni, il mito del multitasking, che è una grande fregatura. Noi smettiamo di fare tante cose tutte insieme pensando che si debbano fare benissimo, facciamo quello che possiamo, anche tante cose, ma come dire, con la consapevolezza che non tutto può essere perfetto, a cominciare da noi, che perfette non siamo. Dunque anche in questa ora di conversazione si potranno dire anche un po' di stupidaggini. È domenica mattina, ce lo possiamo permettere. Non siamo perfette e, come sapete, all'inizio di questa trasmissione ogni domenica identifichiamo con spirito costruttivo la donna imperfetta della settimana, che però in questa settimana non è una sola, ma sono forse di più. È un premio che andrà condiviso. Tra un po' vi spiego perché. Io e le altre donne siamo la parte offesa e gli uomini che non commettono questi gesti. Avremmo preferito una punizione più esemplare, ma siamo contenti per il fatto che è stata ripristinata la verità, che i senatori Danna e Barani stavano inquinando con le loro menzogne degli ultimi giorni. È la voce della senatrice Lezzi, la senatrice del Movimento 5 Stelle, alla quale è stato indirizzato il gesto veramente poco elegante del senatore Barani e, a quanto pare, anche del senatore Danna. A chi va il premio Donna Imperfetta? Non certo a lei, ma in generale a tutte quelle senatrici che avrebbero potuto dire qualcosa, avrebbero potuto, indipendentemente dal fatto che anche i grillini fanno e ha spesso uso di turpiloquio e di sessismo, ma indipendentemente da questo, in questa occasione avrebbero potuto far sentire la loro voce. Perché? Perché c'è un momento in cui il conflitto deve essere portato indipendentemente, secondo me, dalla posizione politica. Ma col conflitto le donne hanno un problema, nel senso che spesso preferiscono spararsi tra di loro piuttosto che gestirlo all'esterno. È la cosiddetta sindrome del cecchino. E della sindrome del cecchino vorrei proprio parlare con il nostro agente provocatore di questa domenica, uno che provoca non poco, lo sapete, lo sentite sempre alla Zanzara. David Parenzo, buona domenica, ben trovato. Ciao. Buongiorno e buona domenica a te e ai tuoi radioascoltatori. Ecco, dicevamo della sindrome del cecchino, quella per cui spesso le donne preferiscono spararsi tra di loro piuttosto che sparare fuori. Sparare metaforicamente, per carità, ma hanno un problema con il conflitto. Spesso chinano la testa e se il capo bastone dice non si parla, non si parla. Sì, credo che tu abbia perfettamente ragione. La donna è per definizione accogliente, cerca di disinnescare il conflitto. Quello che è avvenuto e che tu hai evocato poco fa al Senato in questa settimana è sicuramente un gesto sessista, che se ne dica, perché non possiamo riminarlo perché siamo alla radio, ma tutti i tuoi radioascoltatori lo hanno visto. Ma c'è una differenza sostanziale tra il gesto fatto dai due senatori sanzionati troppo poco, perché quei 5 giorni sono una sanzione stupida, sì, sciocca, diciamo, quasi inesistente, simbolica per non dire simbolica. Altro, ecco. Ma quel gesto è assolutamente sessista, rivolto a una donna per giunta incinta, peraltro, perché la senatrice in questione è incinta, e c'è una differenza tra quel gesto e ad esempio il gesto dell'ombrello o il gesto del dito medio, che quindi certo non... Però anche voi alla Zanzara, tu e Cruciani, non vi fate mancare quello né le parole forti né gli insulti. Un peccatorum lì, infatti purtroppo c'è alle volte questo telefono aperto in cui anche gli ascoltatori più becci, ricordi più bassi, qualcosa diciamo relativo al nostro tema della sindrome del cecchino, delle donne che si sparano le une contro le altre, qualcosa che di recente ma sicuramente potrei ricordare tanti episodi, forse la la Sant'Anché, uno dei più grandi cecchini donne, e forse ecco, la Sant'Anché esce da quello stereotipo di cui tu parli, la Sant'Anché azzanna chiunque, siano esse donne, siano essi uomini, lei tende ad azzannare, se sono donne però forse ancora di più, per cui l'acrimonia con la quale ad esempio alle volte l'onorevole Daniela Sant'Anché si scaglia contro la presidentessa della Camera, beh, lì ci sono parole fortissime utilizzate per non ricordare poi le parole di Bonanno, ad esempio, l'eurodeputato circense della Lega Nord, quello che è più conosciuto per i suoi show che non per le sue proposte. Beh, un mese fa alla Zanzara c'è stato anche un epico scontro a distanza tra due che non sono politiche, ma appartengono al mondo, diciamo, dello spettacolo, Nina Moric su Belen Rodriguez. Sì, assolutamente. E posso dire che io ho un po' la sensazione che voi maschietti vi ci divertiate, che tu e no, Giuseppe ma io non Cruciani ne farei. No, su questo io non no. Ne, io parlo per me, lui non sì. Lo so, però noto misogino, ma io non ne faccio assolutamente una questione di genere, tutt'altro. Non, per me l'insulto è insulto. Nel caso però che dà l'avvio alla tua discussione, cioè il gesto sessista fatto al Senato, beh, lì e soprattutto non c'è il silenzio delle senatrici, nessuna anche questo mi ha colpito, nessuna ha veramente preso posizione, sì, un po' a mezza bocca, anche qualcosa. Le femministe storiche, no? Quelle che solitamente sono quelle dalla penna facile, mi sarei aspettata comunque un'Anna Finocchiaro che intervenisse, assolutamente. Io qualche anno fa forse si sarebbero scatenate, non dico girotondi, ma insomma, ma secondo te perché? Ma forse uno perché ormai siamo talmente abituati e assuefatti dall'insulto facile, per cui non ne diamo più neanche troppo peso. Cioè la discussione stessa che c'è stata al Senato rispetto a quel gesto, cioè il Senato e le nostre istituzioni hanno visto di tutto in questi anni, dalla mortadella mangiata dal signor Strano ai trenini fatti alla Camera, però il gesto di Barani, quello fino ad oggi non si era mai visto, rivolto ad una donna. E io penso sì. Si è abbassata. Io penso che va fatta risalire molto molto molto rapidamente, come diceva anche lo stesso Denis Verdini domenica, ospite dell'intervista. A questo proposito, anzi, se vuoi intonare anche tu una canzone, visto beh, che sì, la canzone della settimana adesso non avrò la stessa, come dire, capacità del grande Verdini, ma credo sia questa di Viola Valentino, comprami, io sono in vendita, credo che sia questa la canzone David, della settimana. Devo essere onesta, come giornalista sei bravissimo, come tenorino io no, non bisogna, però io vorrei invitare chi ci ascolta a come sempre a contribuire con le proprie opinioni e se vogliono a esprimere anche un giudizio su come te la cavi tu musicalmente. Ricordo che l'indirizzo mail è nessunaeperfetta@radio24.it, c'è anche un sms 349-238-6666, oppure commentate su Twitter con l'hashtag nessunaeperfetta. E se volete risentire Parenzo con un timbro vocale che vi ha favorevolmente impressionato, scrivetecelo. Se non lo volete sentire mai più, scrivetecelo lo stesso. Grazie David, grazie ciao, per essere stato domenica con noi a Nessuna è Perfetta. Grazie. Buona domenica a te. Ciao, ciao. E adesso una piccola pausa. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma delle donne orgogliose di essere un po' difettose. Siamo imperfette, quindi possiamo anche lasciarci andare e dire, insomma, è domenica mattina, anche qualche stupidaggine, ci sta. Ne abbiamo dette forse prima col nostro agente provocatore David Parenzo. Se pensate che ne abbiamo detto, scriveteci, fateci sapere a Nessuna è perfetta senza accento, @radio24.it, oppure commentate su Twitter con l'hashtag Nessuna è perfetta. Ma come è tradizione ormai di questo programma, è anche il momento di andare a fare due chiacchiere con la nostra Sunday Girl. I'm your girl, Ecco, la nostra Sunday Girl della settimana è una tosta, è una tostissima, è una che di battaglie, di conflitti si intende, e anche di bellissime novità che arrivano, come dire, a sorpresa, per esempio un libro. Allora, Sunday Girl è Serena Dandini, buona domenica, ben trovata, e grazie. Il libro molto atteso, perché è il primo romanzo dopo saggi, dopo libri divertenti, dopo tanta compagnia che ci siamo fatta in TV. Io da sempre sono una fan di Serena Dandini. Beh, il libro si chiama Il futuro di una volta, pubblicato da Rizzoli. Intanto grazie, questo è il mio programma ideale, nessuno è perfetto, mi sento proprio l'ospite, come dire, adeguato, ecco. Tutte siamo così, un po' imperfette, di domenica mattina ancora di più. Esatto, grazie veramente. Sì, sono un po', come dicevo, una primipara attempata per il romanzo, perché ho aspettato tanto, forse un po' per, come dire, la nostra autostima di donne azzerata, come spesso racconti nelle tue interviste, e un po' perché poi a un certo punto le cose scaturiscono, no? Diciamo che c'è l'esigenza, escono fuori, e questo romanzo è un po' uscito così. A me piace molto un duplice aspetto del tuo romanzo. Da un lato l'energia che c'è ancora nei sessantenni, le pagine osé del sesso tra gli arrugginiti, tra i sessantenni, esatto, che ancora gli danno giù, come si dice a Roma. Esatto, perché comunque mi divertiva anche... no, questa, in realtà la protagonista ha 70, deve compiere 70 anni, però diciamo è dedicato dai 50 in su a tutte le donne. Io vorrei essere come lei, si chiama Lauri ed è una ex prichettona che non demorde, un po'... che non demorde, no, mentre young, diciamo. invece la figlia Elena, che ha 37 anni, appartiene un po' a quella fascia generazionale che si scontra magari con la voglia di non lottare, Sì, diciamo che Il futuro di una volta è un gioco di parole, tra l'altro preso da Polvere Ricchi, che diceva il problema dei nostri tempi è che non c'è più il futuro di una volta, pensa allora, pensa adesso sì. E un po' questa, figli anche di genitori molto forse così pieni di esagerata joie de vivre, che vedono come se, un po' glielo diciamo sempre anche noi, gli abbiamo rubato il futuro, gli abbiamo rubato il sogno, non hanno l'orizzonte. E questi si deprimano, poveri figli. Si deprimono, e si chiudono un pochino, quindi Elena ha surgelato i sentimenti tutti impacchettati, no? Ha cercato di evitare le emozioni forti, ha scelto un lavoro non per passione, come era un diktat, no? Nostro, generazionale, ma semplicemente per comodità, un lavoro che le dà meno pensieri possibili. No? Lei sceglie le strade in discesa, in questo senso, per non procurarsi troppe emozioni. E si tiene, adesso poi non voglio raccontare troppo del romanzo e ti porto poi sul tema della nostra domenica, si tiene però un vero e unico conflitto, quello con la madre. Ma esatto. Serena, a proposito di conflitti, io ho l'impressione che tu la capacità di gestirli l'abbia appresa nel corso delle tue esperienze, e per esempio di gestire anche i conflitti col potere. Ti è capitato? Io mi ricordo una... Diciamo che la mia autobiografia ne è piena, basta andare su Wikipedia. Io non... Ecco, mentre su altri conflitti mi ci metto come una testa d'ariete, nei confronti del potere preferisco fare un passo indietro, perché penso che così non ho e non voglio forse avere quella tigna cattiva, no? Che a volte è necessaria. Preferisco dimostrare sempre coi fatti le cose, per cui vado di lato e faccio un'altra cosa e vado avanti per la mia ma strada. Ma questo è molto femminile, andare di lato, no? Noi non abbiamo imparato, perché la guerra non l'abbiamo mai fatta, ma non abbiamo imparato ad andare dritti al conflitto. Forse non ci piace, d'accordo, ma è un vantaggio o uno svantaggio, come dire, andare di lato e non affrontare direttamente una bella litigata? No, è una bella domanda ed è molto complicata. Credo che bisognerebbe ogni tanto rileggersi il secondo testo di Simone de Beauvoir per ricaricarci, no? Perché lei già nel 49 spiegava tutto, quindi ogni tanto noi abbiamo delle così amnesie. Allora, sai, il ripassino, un bel ripassino, sì, ci vorrebbe. L'andare di lato così e sommergersi no, però io penso che andare di lato è andare avanti, però, no? Un po' come il gioco degli scacchi, questo, se vogliamo una metafora più vicina a come la penso io, come ho agito io. Quindi puoi fare scacco matto ugualmente, non andando dritta per dritta, ecco questo. Ma, ricordo un tuo scontro con Michele Boldrin, l'economista, che qualche anno fa al servizio pubblico disse: lei si è confusa come al solito, Dandini, e tu hai replicato: io come al solito confusa, ma lei mi conosce. Scusa, lo stereotipo classico. Lo stereotipo della donna non competente, vuoi dire? Sì, la donna non competente, non adeguata, che si confonde. Non a caso, poi noi tanto è che alla fine uno ci crede e si sente. Non ma se tu avessi avuto ospite in una tua trasmissione, quando te la rifaranno fare, il senatore Barani. Forse non l'avrei invitato. Ecco. Devo dire che forse c'è stata anche una reazione molto modesta rispetto a quella che poteva esserci tra le senatrici. Anche sì, lì non diciamo si è fatta molta squadra. È importante, anche io penso, fa un po' ridere le 5 giornate di squalifica, se questo naturalmente ti riferisci. Sì. Ma meglio quello che niente, nel senso che comunque, sai, noi in Italia abbiamo il Parlamento col record di assenteismo, quindi da una parte dici, sai, che gli frega loro di 5 giorni, però almeno che ci sia stato un gesto simbolico, perché certe cose vanno sancite, se no capisci che l'esempio, allora a scuola quando un ragazzo fa la stessa cosa dice ma sono in Parlamento, io papà sta liscia perché non dovrei farlo io in classe alla tavola del terzo banco. Comunque la cosa più buffa e surreale che ti è capitata in questi anni di un conflitto per il quale poi magari a un certo punto hai detto ma sai che c'è, magari faccio una cosa da donna, vado di lato, oppure invece no, l'hai affrontata a viso aperto? Ma guarda, io adesso diciamo un ricordo in particolare, però un'altra tecnica che mi ha sempre così salvato nella vita è l'ironia e l'autoironia. Questa la consiglio alle donne, no? Veramente. Ma secondo te la capiscono? Perché certe volte, come dire, beh, o fanno finta o non la capiscono proprio. Secondo me fa rodere anche più a volte della violenza, sai, perché è un atteggiamento comunque in cui intanto se ti prendi in giro da sola dimostri una grande forza. Io mi ricordo quando facemmo ormai sono passati remoti le ragazze all'epoca eccetera, così che erano tutti stravolti da questo fatto che pigliavamo in giro noi stesse anche i primi, tutti pensavano quando doveva uscire questo programma sarà tutto contro gli uomini eccetera, invece c'era molta autironia che spaventava poi invece, incredibilmente. E perché secondo te pure l'autoironia spaventa? Sì, perché è una prova di forza, capito? Tu puoi fare lo scimmione e batterti le mani sul petto facendo degli ululati. Cosa che non ci verrebbe bene, devo dire. Io non ti ci vedo con la mano sul petto. No, anche perché portando la terza abbondante me ne sarebbe scomodissimo. Fortunata. Grazie a Serena Dandini. Grazie. Il futuro di buon una volta lavoro. È in libreria e noi non ce lo faremo mancare. Grazie. Grazie. Buona domenica. Anche a voi. E adesso un attimo di pausa prima di tornare con Nessuna è perfetta. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, allora la sindrome del cecchino. La sindrome del cecchino per cui le donne che non hanno mai praticato l'arte della guerra perché non sanno come si fa, non c'è mai stata insegnata, e se devono proprio sparare spesso si sparano addosso tra di loro dalla parte delle donne, oppure scelgono il silenzio, chinano il capo perché il conflitto è qualcosa che non appartiene loro. Va anche bene così, ma poi non va bene se quando non ce la fanno più invece di affrontare a viso aperto appunto il conflitto scelgono il colpo basso, scelgono lo sgambetto, perché questo innesca sempre, come dire, spirali perverse che non portano quasi mai bene a nessuno. E dunque di sindrome del cecchino e di conflitto, parla un po' anche la nostra lettera della settimana. Io vi ricordo che le aspettiamo, potete scriverci all'indirizzo mail nessunoeperfetta@radio24.it e commentare su Twitter usando l'hashtag nessunoeperfetta senza accento, anche su Facebook naturalmente. Chi ci scrive questa settimana sceglie lo pseudonimo di Matari, e già questo è un programma. Ho 35 anni, lavoro con un ruolo di responsabilità in una multinazionale nel settore del largo consumo. Ormai da 2 anni ho un problema che sta incidendo anche sulla mia salute. Mi è venuta la gastrite. Il fatto è che sento di essere antipatica al mio capo, il quale non perde occasione per rimproverarmi se i risultati di budget sono anche solo di poco inferiori alle attese o se una riunione non va nel verso giusto. Ma quando le cose vanno bene, mai una lode. Dopo 2 anni di silenzio non ne posso più. Lui è sposato e io una sera l'ho visto, per caso, al ristorante con la sua segretaria. Ho indagato e ho scoperto che ha una relazione con lei da almeno 1 anno. Sono tentata di far circolare la voce attraverso fonti fidate. Non migliorerà la mia gastrite, ma forse così me lo levo di torno. In azienda le relazioni con le segretarie sono viste malissimo. Matari. L'arte della guerra e il ricorso al colpo basso, allo sgambetto. Indovinate con chi ne parliamo? I nostri esperti della settimana sono veramente esperti. Uno, Bruno Ballardini, scrittore, esperto di comunicazione strategica e anche uno dei massimi conoscitori di Sun Tzu, al quale tutti noi dobbiamo l'arte della guerra nella vita quotidiana. E Sun Tzu, ve lo ricordo per chi non lo conoscesse, è l'autore di un trattato di strategia militare che è tuttora alla base della formazione di aziendale ovunque nel mondo. E quindi buongiorno, buona domenica Bruno Ballardini. Buongiorno a tutti. E dall'altra parte un'esperta massima di conflitto, la capitana dell'esercito italiano Anna Polico, una donna che si è sperimentata davvero sul conflitto su terreni di operazioni difficili in Iraq, in Libano, dove ha comandato molti uomini. E buona domenica, capitano Polico. Buongiorno e buona domenica a voi. Allora, io comincerei subito da lei, capitano. Le donne non studiano l'arte della guerra, storicamente. Lei invece, che è capitano dell'esercito, il conflitto l'ha studiato per forza. Che cosa vi insegnano? Che cosa le hanno insegnato nel suo addestramento militare? Bene, come lei dice correttamente, una dello studio anche poi a livello universitario che ne facciamo afferisce proprio al tema del conflitto visto storicamente, quindi l'approccio al conflitto a 360 gradi. Lei ha citato Sun Tzu, che è stato uno dei capisaldi del nostro studio proprio in un esame universitario durante il mio quinquennio, ma al di là degli esempi storici importanti che sicuramente ci avvicinano molto alla strategia, ecco, militare, all'arte della lei guerra. Lei che cosa ha imparato? Un esempio pratico, il conflitto per esempio con un suo superiore, come lo gestisce? Quello che diremmo in inglese è learning by doing, no? Facendo impariamo, e quindi comandando tanti uomini e essendo poi io stessa invece al comando di altri uomini, ho imparato la gestione dei conflitti che si creano interpersonali, perché noi abbiamo l'obiettivo comune, che è quello che ci salva. Quindi dalla lettera della sua ascoltatrice invece si evince una forte spinta individualistica, cosa che invece nell'esercito, nelle forze armate viene annullata grazie alla condivisione dello scopo finale, del raggiungimento di un obiettivo che non è un obiettivo di appagamento individuale o di serenità individuale, ma lo si raggiunge quando è il gruppo. Perché c'è uno scopo di gruppo a raggiungerlo, esatto. Infatti noi lavoriamo molto molto molto sul team building, che è una cosa che invece negli ultimi anni stanno affrontando anche le grandi aziende. Quindi certo, noi abbiamo l'esempio dei corsi che facciamo a favore di grandi aziende che ce lo richiedono, che è proprio improntato sul team building, sulla costruzione di un gruppo armonico di lavoro all'interno del quale viene fuori, emerge in maniera naturale il leader. Vorrei chiedere all'esperto di Sun Tzu, al professor Ballardini, in questo caso specifico si evince chiaramente l'incapacità di gestire il conflitto, perché la nostra ascoltatrice rimane 2 anni in silenzio, subisce quello che lei pensa sia un atteggiamento negativo da parte del suo capo, e quando non ce la fa più non va lì e dice parliamone a viso aperto, ma ricorre a quella che è l'arma secolare delle donne, lo sgambetto, il colpo basso. Io trovo che questa strategia sia perdente in partenza, perché non risulta condivisa a livello di ambiente. Il discorso è che Sun Tzu consiglia in genere di creare una situazione, costruirla lentamente per arrivare alla vittoria. Questo significa fare terra bruciata, ad esempio, all'interno dell'ambiente o il campo di battaglia, in modo tale che la vittoria alla fine è automatica. L'errore che fa è di affrontare uno a uno, e in questo caso il capo rimane il capo con tutto il suo potere, e quindi lei potrebbe avere un boomerang e ricevere, ad esempio, una risposta in termini aziendali distruttiva. Questo è l'errore. Perché nel momento in cui usa il colpo basso e comincia, per esempio, a diffondere la voce della presunta relazione clandestina del suo capo con la segretaria, che cosa pensa di ottenere? Di gettare discredito sul capo, e lei dice così me lo levo di torno. Non se lo leva di torno, perché il capo rimane il capo, rimane al suo posto. Il massimo che può accadere è che lei venga allontanata. Il discorso è non utilizzare questi mezzucci quando non si ha ancora una forza contrattuale, una forza sul campo tale da poter vincere. Lei in questo caso, per esempio, quale azione, secondo l'arte della guerra di Sun Tzu, consiglierebbe a Matari invece della maldicenza? La maldicenza non è un'azione, rientra nello spionaggio, rientra nelle attività coperte, come si può dire. È invece un tentativo di rovesciare la situazione facendo una duplice azione, creandosi degli alleati con altri dirigenti, oppure tentando un rapporto diretto con il capo basato su altri parametri, basato non sul sesso, basato su una condivisione di qualcosa. Ma il problema è che lei pensa soltanto ed esclusivamente allo scontro frontale, quando lo scontro frontale non è possibile. Questo è l'errore. Capitano Polico, quando lo scontro frontale non è possibile, come dice il professor Ballardini, il nostro esperto di Sun Tzu, sul terreno di guerra, sul terreno del conflitto, mettiamola così, che cosa resta? Lei che cosa suggerirebbe alla nostra Matari? Io parto dall'assunto che l'utilizzo dei mezzucci, come diciamo, comunque degli sgambetti, non è una questione di genere, ma è di mediocrità. Parto dal presupposto che chi crede fortemente nella lealtà, che per noi non è un valore retorico di belle parole, ma è di fatto una condizione necessaria per poter sopravvivere anche in contingenze particolarmente difficili, come possono essere quelli dei teatri operativi, delle operazioni importanti in cui noi ci troviamo a dover realmente avere piena fiducia ed essere pienamente leali con i nostri coppi, con i nostri colleghi, proprio vista la difficoltà del caso. E quindi gli scontri frontali, quelli interpersonali, sono assolutamente sani e sono assolutamente reali. Ma le donne hanno paura di affrontare lo scontro diretto? Io ritengo che una donna che dimostri di essere professionalmente capace, determinata ed effettivamente propensa al raggiungimento di un obiettivo, che è un obiettivo che in cui lei stessa crede, alla stessa stregua di un uomo è in grado di far gruppo, di farlo in maniera solida, come diceva prima il professore, e quindi di non limitarsi al mero scontro individuale, che non porterebbe ad alcun successo, se non magari a un ritorno dell'immediato di una sorta di serenità raggiunta, che però poi è fasulla ed è assolutamente effimera. Quindi il ricorso a un mezzo così infimo quale quello dello spionaggio, come diceva anche prima il professore, dell'attività di copertura, della ricerca del privato, ritengo che sia assolutamente da evitare, ma quello, ripeto, ahimè ne faccio una questione più di mediocrità che di genere, su questo sono convinta, benché, aggiungo solo quest'ultima cosa, io degli uomini ho imparato ad apprezzare in questi anni la grandissima capacità di fare branco, come dico io, rendendoli proprio, insomma, una maggiore capacità probabilmente di collaborare già da subito. Ne abbiamo come proprio donne... parlato la sì. settimana scorsa qui con il nostro agente provocatore della domenica precedente, con Mario Giordano, il quale invece asserisce che è un limite delle donne questo mettersi insieme, che non gli piace. L'ho detto, nel senso che è un... No, a lui non piace che le donne facciano gruppo, che facciano gruppo e networking. Io gli ho spiegato che è una visione da divide e tempera, secondo me. Esatto, ma quello è quello che conviene agli uomini, eh? È quello che conviene, infatti, è quello che conviene esatto, agli uomini. Esatto, senta, capitano, esatto. Noi penso che ci risentiremo, anche perché qui i terreni di guerra, come dire, minacciano di aumentare, e proprio in questi giorni si parla di coinvolgimento italiano in territori nuovi. Vedremo che cosa succederà. Io intanto la ringrazio, capitano, grazie, e ringrazio il professor Bruno Ballardini, scrittore, esperto grazie di comunicazione strategica ed esperto di Sun Tzu. Anche con lei penso che ci risentiremo spesso. Grazie, e noi ci fermiamo per una brevissima pausa, poi come sapete è il momento della coach, perché con Carla Cianico, la nostra coach, cercheremo di capire che cosa c'è dietro la lettera di Matahari e soprattutto come deve uscirne, se è proprio una buona idea fare la Matahari e fare la spia. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Centa. Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, il programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. O meno? O meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Nessuna è perfetta. Siamo all'ultima parte di Nessuna è perfetta. Abbiamo parlato per tutta la puntata con Serena Dandini, con l'agente provocatore, con la capitana dell'esercito Anna Polico e con l'esperto di Sun Tzu, esperto dell'arte della guerra, Bruno Ballardini. Abbiamo parlato per tutta la puntata della paura del conflitto che agisce nelle donne e che spesso le induce a scegliere l'alternativa dello sgambetto, del colpo basso, un po' come pensa di fare l'ascoltatrice che ci ha inviato la lettera della settimana, e che la riassumo per chi si fosse messo ora in ascolto. Lavora in una multinazionale, ritiene di non essere apprezzata dal proprio capo, che non le fa mai un complimento e invece va sempre a vedere che cosa anche di minimo non ha funzionato in una riunione o in una presentazione di un budget. E dopo 2 anni di silenzio dice: mi è venuta la gastrite, non ne posso più, ho scoperto che lui ha una relazione con la segretaria e sto quasi pensando di mettere in circolazione questa voce, perché l'azienda vede molto male le relazioni di questo tipo tra i capi e le segretarie, e forse così me lo levano di torno. È una volta di più, appunto, la scelta del colpo basso invece che affrontare a viso aperto un proprio problema professionale. Ora è il momento di Carla Ciani, la nostra coach. Ne avete già avuto modo di ascoltarla qui a Nessuna è perfetta. Dunque, Carla Ciani, che cosa si coglie buongiorno, in questa Maria, lettera di Matahari? Beh, innanzitutto si coglie la gastrite e forse dovrebbe prima di tutto farsi aiutare dalla sua gastrite. La gastrite è l'esito di una frustrazione. La frustrazione è quello che sentiamo quando contemporaneamente collera e paura ci assalgono, la sensazione del vorrei ma non posso, e quindi di immobilità, immobilità che abbiamo visto con questo tempo lunghissimo di silenzio. 2 anni si tiene dentro questa rabbia. 2 anni, e quindi si tiene dentro collera e paura, frustrazione. Questo silenzio è troppo lungo, l'ha usato per rafforzare le sue convinzioni, rafforzare il suo rancore verso il capo, e ha concentrato di fatto tutte le energie in un'elaborazione di questa vendetta personale che A, la metterebbe ancora in una condizione di non credibilità, anzi di etichetta del femminile, dove tutto funziona con il gossip e col colpo basso, e col colpo basso. Quindi è piuttosto disastrosa questa idea di vendetta, che peraltro avrebbe generato dolore anche ad altre donne, se ho capito bene. Ecco, ma perché le donne hanno paura del conflitto a viso aperto? Hanno paura del conflitto a viso aperto perché hanno bisogno di una considerazione complessiva. Il conflitto è tipicamente fine a se stesso, vede un continuo ferirsi delle parti. Se affrontiamo il conflitto, il timore di essere ferita da parte della donna, di essere ferita complessivamente, è molto, molto alta questa paura. Quindi non ma che cosa può succedere a Matahari se si presenta al suo capo, bussa alla porta e dice io credo che ci sia un problema di comunicazione tra noi, spiegami che cosa non va bene nel mio lavoro? Guarda, succederebbe che fa evidentemente qualcosa di buono per il suo capo, fa qualcosa di buono per la sua azienda, soprattutto fa qualcosa di buono per lei. Le aziende sono fatte di persone, ovviamente, che però troviamo e non scegliamo nelle aziende. Possono essere più o meno antipatiche, ma in azienda non possiamo stare sulle simpatie o antipatie, dobbiamo costruire delle relazioni profittevoli. Quindi dovrebbe proprio rivolgere la sua attenzione a un contesto più ampio. E scusa, ecco, come possiamo spiegarle di darsi coraggio da sola e di bussare a quella porta? Che cosa può aiutarla in questo? Una cosa molto pratica: un capo ha anche la responsabilità di gestione delle risorse, che sicuramente l'azienda pretende da lui. Ci sono dei sistemi di valutazione oggettivi, quindi quello che lei che l'aiuterebbe a superare tutto questo è che di fatto il contributo che le può dare il suo capo e quello che lei può dare a lui servono per migliorare il contesto aziendale. Quindi lei fa qualcosa di costruttivo per sé e per l'azienda. Che tipo di comunicazione dovrebbe avere col suo capo? Siamo proprio in chiusura. Molto, molto oggettiva, dovrebbe chiedere appunto una valutazione sui suoi risultati, i risultati che derivano dal suo ruolo, e sui suoi aspetti comportamentali, quindi se i suoi comportamenti sono coerenti con gli obiettivi che sono richiesti dall'azienda e nel contesto situazionale, quindi con il team, se appartiene a un team piuttosto che con colleghi, collaboratori. Ecco, la nostra capitana Anna Politko, la capitana dell'esercito che ha preceduto quest'ultima parte, sottolinea che nell'esercito ti insegnano a fare team building, a fare squadra. Certo, evidentemente certo. In questo caso Matahari ragiona molto individualmente, e invece l'esperto di Sun Tzu parte dal presupposto che per vincere una guerra, stiamo parlando di piccola guerra, prima devi avere preparato il terreno ed essere sicuro della vittoria. In questo caso come si prepara il terreno? Ma il terreno innanzitutto si prepara con la definizione di ciò che davvero vogliamo conquistare. Quindi, come detto, la guerra è una serie di azioni strategiche e tattiche che sono finalizzate alla conquista. Quindi prima di tutto dobbiamo credere in ciò che vogliamo davvero conquistare. In questo caso mi pare evidente che ci sono due cose. Lei vuole avere un rapporto di gratificazione, cioè sentirsi lodata da un lato, e dall'altro vuole evidentemente che il rapporto col capo sia più fluido. Sì, però deve abbandonare l'idea di essere considerata, accolta a prescindere. Quindi deve fissare con il capo gli obiettivi di valutazione, perché la lode non può essere complessiva. Dobbiamo essere stimati, considerati, gratificati per ciò che facciamo, non essenzialmente per ciò che siamo. Quindi non deve cercare come dire, una lode complessiva, ma una misurazione sistematica e continua delle sue performance. E soprattutto, siamo in chiusura, evitare di pensare di avere una vendetta inutile mettendo in giro voci che sono fuori uso. Assolutamente fuori stile. un boomerang e non farebbe crescere e migliorare la sua reputazione e nessuno intorno a lei. Grazie Carla Ciani, la nostra Grazie. Coach della domenica. Buona domenica a Carla Ciani, buona domenica a voi che ci avete ascoltato. Scriveteci, ve lo ricordo, su nessuna è perfetta senza accento @radio24.it o mandateci i vostri commenti usando l'hashtag nessuna è perfetta su Twitter. Buona domenica e relax. Ricordatevelo, il multitasking è una fregatura.